Il terzo anello, ad alta voce, Il deserto dei Tartari, di Dino Buzzati. Molte volte Drogo era stato solo, in alcuni casi anche da bambino, smarrito per la campagna, altre volte nella città notturna, nelle vie abitate dai delitti, e persino la notte prima, che aveva dormito per la strada. Ma adesso era una cosa ben diversa. Adesso che era finita l'eccitazione del viaggio e i suoi nuovi colleghi erano già a dormire, e lui sedeva nella sua camera, alla luce della lampada, sul bordo del letto, triste e sperduto. Adesso sì, capiva sul serio che cosa fosse solitudine. Una camera non brutta, tutta tappezzata di legno, con un grande letto, un tavolo, un incomodo divano e un armadio. Tutti erano stati gentili con lui. Alla mensa avevano aperto una bottiglia in suo onore. Ma adesso di lui se ne infischiavano. L'avevano già completamente dimenticato. Sopra il letto un crocifisso di legno. Dall'altra parte una vecchia stampa con una lunga scritta in cui si leggono le prime parole. Umanissimi, viri, francisci, angloisi, virtutibus. Nessuno per la durata dell'intera notte sarebbe entrato a salutarlo. Nessuno in tutta la fortezza pensava a lui, e non solo nella fortezza. Probabilmente anche in tutto il mondo non c'era anima che pensasse a Drogo. Ciascuno ha le proprie occupazioni, ciascuno basta appena a se stesso. Persino la mamma poteva darsi, persino lei in questo momento aveva in mente altre cose. Di figlioli non c'era soltanto lui. A Giovanni aveva pensato tutto il giorno, adesso toccava un po' anche agli altri. Più che giusto, ammetteva Giovanni Drogo, senza ombra di rimprovero, ma intanto egli era seduto sul bordo del letto, nella camera della fortezza. Incisa nel legno della parete, adesso notava, colorata con straordinaria pazienza, una sciabola in grandezza naturale, che poteva a prima vista sembrare anche vera. Meticoloso lavoro di qualche ufficiale, chissà mai quanti anni addietro. Era seduto, dunque, sul bordo del letto, la testa un po' piegata in avanti, la schiena curva, gli sguardi atomi e pesanti, e si sentiva solo come mai nella vita. Ed ecco Drogo alzarsi con uno sforzo, aprire la finestra e guardare fuori. La finestra dava sul cortile e non si vedeva nient'altro. Poiché guardava verso sud, Giovanni cercò invano di distinguere, nella notte, le montagne che aveva attraversato per giungere alla fortezza. Esse risultavano più basse, nascoste dal muro di fronte. Solo tre finestre erano illuminate, ma appartenevano alla sua medesima facciata, cosicché dentro non si vedeva. Il loro alone di luce e quello della stanza di Drogo si stampavano sul muro opposto ingigantiti, e in uno di essi si agitava un'ombra. Forse un ufficiale stava spogliandosi. Chiuse la finestra, si spogliò, si mise a letto, restò qualche minuto a pensare, fissando il soffitto, pure rivestito di legno. Si era dimenticato di portarsi da leggere, ma quella sera non gli importava perché sentiva un gran sonno. Spense la lampada. Nel buio, a poco, emerse il rettangolo chiaro della finestra, e Drogo vide brillare le stelle. Gli parve che un torpore improvviso lo trascinasse nel sonno, ma ne aveva troppo coscienza. Una baraonda di immagini, quasi di sogno, gli passarono davanti. Cominciavano persino a formare una storia, ma dopo qualche istante si accorse di essere ancora sveglio. Sveglio più di prima, perché lo colpì la vastità del silenzio. Lontanissimo, ma era poi vero, giunse un colpo di tosse, poi un flaccido ploc dell'acqua che si propagò per i muri. Una piccola stella verde, egli vedeva rimanendo immobile, stava nel suo viaggio notturno raggiungendo il limite superiore della finestra. Fra poco sarebbe sparita. Scintillò un attimo proprio sul bordo nero e poi infatti scomparve. Drogo la volle seguire ancora un po', spostando in avanti la testa. In quel punto si udì un secondo ploc, simile al tonfo di un oggetto nell'acqua. Si sarebbe ripetuto ancora. Aspettò in agguato il suono, rumore da sotterranei, da acquitrini, da case morte. Passarono così minuti immobili. Il silenzio assoluto pareva finalmente incontrastato signore della fortezza, e di nuovo premevano intorno a Drogo insensate immagini della vita lontana. L'odioso suono. Drogo si mise a sedere. Quello era dunque un rumore a ripetizione. Gli ultimi tonfi non erano poi stati minori del primo. Non poteva essere dunque stillicidio in via di esaurimento. Com'era possibile dormire? Drogo si ricordò che di fianco al letto pendeva un cordone, forse di un campanello. Provò a tirare. Il cordone cedette e in un remoto meandro dell'edificio rispose, quasi impercettibile, un breve tintinnio. Che stupidaggine, pensò adesso Drogo, chiamare gente per una simile inezia. E chi sarebbe poi venuto? Nel corridoio fuori risuonarono poco dopo dei passi. Si fecero sempre più vicini e qualcuno bussò alla porta. Avanti, fece Drogo. Comparve un soldato con una lanterna in mano. Comandi, signor tenente. E qui non si può dormire, per Dio, fece Drogo arrabbiandosi a freddo. «E cos'è questo schifoso rumore? Qualche tubo che spande? Guarda di farlo finire, non si può assolutamente dormire. Alle volte basta mettere uno straccio sotto». «E la cisterna?» rispose il soldato immediatamente, come se fosse pratico della cosa. «E la cisterna, signor tenente? Non c'è niente da fare». «La cisterna?» «Sì, signore», spiegò il soldato. «La cisterna dell'acqua. Proprio dietro a quel muro. Oh, tutti si lamentano, ma non si è potuto far niente. E non è mica solo qui che si sente». Anche il signor capitano Fanzaso ogni tanto urla, ma non c'è niente da fare. Va pure allora, fece Drogo. La porta si chiuse e i passi si allontanarono. Si ampliò nuovamente il silenzio. Brillarono le stelle nella finestra. Giovanni ora pensava alle sentinelle che a pochi metri da lui camminavano come automi su e giù senza un respiro di pausa. Decine e decine erano gli uomini svegli, mentre lui giaceva nel letto, mentre tutto pareva immerso nel sonno. Decine e decine, pensava Drogo, ma per chi? Per che cosa? Il formalismo militare in quella fortezza sembrava aver creato un insano capolavoro. Centinaia di uomini a custodire un valico da cui nessuno sarebbe passato. Andarsene al più presto, pensava Giovanni. Uscir fuori, all'aria, da quel mistero nebbioso. Oh, la sua onesta casa. A quest'ora la mamma certo stava dormendo, le luci tutte spente, a meno che non pensasse ancora per un momento a lui. Era anzi molto probabile, egli la conosceva bene. Per la più piccola cosa stava in ansia, e di notte si rigirava nel letto senza trovare riposo. Ancora il rigurgito della cisterna, ancora un'altra stella che sconfinò dal riquadro della finestra, e la sua luce continuava a raggiungere il mondo, gli spalti della fortezza, gli occhi febbrili delle sentinelle. Ma non più Giovanni Drogo, che attendeva il sonno, ora tormentato da sinistri pensieri. E se le sottilizzazioni del Matti fossero tutte una commedia? Se in realtà, anche dopo i 4 mesi, non l'avessero più lasciato partire? Se con sofistici pretesti regolamentari gli avessero impedito di rivedere la città? Se avesse dovuto rimanere lassù per anni e anni, e in quella stanza, su quel solitario letto, si fosse dovuta consumare la giovinezza? Che ipotesi assurde, si diceva Drogo, rendendosi conto della loro stoltezza, eppure non riusciva a scacciarle. Esse, dopo poco, tornavano a tentarlo, protette dalla solitudine della notte. Gli pareva così di sentire crescere attorno un'oscura trama che cercasse di trattenerlo. Probabilmente non si trattava neppure del Matti. Né questi, né il colonnello, né alcun altro ufficiale si interessavano menomamente di lui. Che rimanesse o partisse, certo era loro del tutto indifferente. Tuttavia, una forza sconosciuta lavorava contro il suo ritorno in città. Forse scaturiva dalla sua stessa anima, senza che egli se ne accorgesse. Poi vide un atrio, o un cavallo su una strada bianca. Gli sembrò che lo chiamassero per nome, e così fu preso dal sonno. Thank you. Due sere dopo, Giovanni Drogo montò per la prima volta di servizio alla terza ridotta. Alle 6 del pomeriggio si schierarono nel cortile le 7 guardie, 3 per il forte, 4 per le ridotte laterali. La ottava, per la ridotta nuova, era partita in precedenza perché c'era parecchia strada da fare. Il sergente maggiore Tronc, vecchia creatura della fortezza, aveva condotto i 28 uomini per la terza ridotta, più un trombettiere che faceva 29. Erano tutti della seconda compagnia, quella del capitano Ortiz, a cui Giovanni era stato assegnato. Drogo ne prese il comando e sguainò la spada. Le 7 guardie montanti erano allineati a piombo e da una finestra, secondo la tradizione, il colonnello comandante le osservava. Sulla terra gialla del cortile esse formavano un disegno nero, bello a vedersi. Il cielo, spazzato dal vento, risplendeva sopra le mura, tagliate diagonalmente dall'ultimo sole. Una sera di settembre. Il vicecomandante, tenente colonnello Nicolosi, uscì dal portone del comando, zoppicando per un'antica ferita, e si appoggiava alla spada. Quel giorno era di servizio per l'ispezione il gigantesco capitano Monti. La sua voce rauca diede il comando e tutti insieme, assolutamente insieme, i soldati presentarono le armi con un potente scroscio metallico. Poi si fece un vasto silenzio. Allora, ad uno, i trombettieri delle 7 guardie suonarono i ritornelli d'uso. Erano le famose trombe d'argento della fortezza Bastiani, coi cordoni di seta rossa e d'oro, con appeso un grande stemma. La loro voce pura si allargò per il cielo e ne vibrava l'immobile cancellata delle baionette con vaga sonorità di campana. I soldati erano fermi come statue, i loro volti militarmente chiusi. No, certo essi non si preparavano ai monotoni turni di guardia. Con quegli sguardi da eroi, certo pareva andavano ad aspettare il nemico. L'ultimo squillo restò a lungo nell'aria, ripetuto dalle lontane mura. Le baionette scintillarono ancora un attimo, lucide contro il cielo profondo, quindi furono inghiottite entro le schiere, spegnendosi simultaneamente. Il colonnello era scomparso dalla finestra. Risuonarono i passi delle 7 guardie che si irradiavano verso le rispettive mura attraverso i labirinti della fortezza. Un'ora più tardi, Giovanni Drogo era sulla terrazza sommitale della terza ridotta, nel punto medesimo donde la sera prima aveva guardato verso il settentrione. Ieri era venuto a curiosare come un viaggiatore di passaggio, adesso era invece il padrone. Per 24 ore l'intera ridotta e 100 metri di mura dipendevano da lui solo. 4 artiglieri, sotto di lui, nell'interno del fortino, badavano ai 2 cannoni puntati al fondo della valle. 3 sentinelle si dividevano il ciglione perimetrale della ridotta, altre 4 erano scaglionate lungo il muraglione, verso destra, 25 metri per una. Il cambio con le sentinelle smontanti era avvenuto con meticolosa precisione sotto gli occhi del sergente maggiore Tronc, specialista dei regolamenti. Tronc era la fortezza da 22 anni e oramai non se ne muoveva più neppure nei periodi di licenza. Nessuno conosceva come lui ogni angolo della fortificazione. Spesso gli ufficiali lo incontravano di notte, che girava intorno a ispezionare, nel buio più nero, senza il minimo lume. Quando lui era di servizio, le sentinelle non abbandonavano per un istante il fucile, non si appoggiavano ai muri ed evitavano persino di fermarsi, perché le soste erano concesse solo in via eccezionale. Per tutta la notte Tronc non dormiva e a passi silenziosi si aggirava per il cammino di ronda, facendole trasalire. «Chi va là? Chi va là?» chiedevano le sentinelle, imbracciando il fucile. «Grotta!» rispondeva il sergente maggiore. «Gregorio!» diceva la sentinella. Praticamente, ufficiali e sottufficiali in servizio di guardia giravano sul ciglione delle proprie mura senza formalità. I soldati li conoscevano bene di vista e lo scambio delle parole d'ordine sarebbe parso ridicolo. Solo con Tronc i soldati seguivano alla lettera il regolamento. Il sergente maggiore Tronk era piccolo e magro, con una faccia da vecchietto, la testa rasata. Parlava pochissimo anche con i colleghi e nelle ore libere preferiva in genere starsene solo a studiare musica. Quella era la sua mania, tanto che il maestro della banda, il maresciallo Espina, era forse il suo unico amico. Possedeva una bella fisarmonica, ma non la suonava quasi mai, pur essendo leggenda che fosse bravissimo. Studiava l'armonia e dicevano che avesse scritto diverse marce militari. Di preciso, però, non si sapeva niente. Non c'era pericolo, quando era di servizio, che si mettesse a fischiettare come era sua abitudine durante il riposo. Per lo più si aggirava lungo le merlature, scrutando il vallone del nord, alla ricerca di chissà cosa. Adesso era di fianco a Drogo e gli indicava la mulattiera che, lungo precipitosi costoni, portava alla ridotta nuova. «Ecco la guardia smontante», diceva Tronk, facendo segno con l'indice destro, ma nella penombra del crepuscolo Drogo non riuscì a distinguerla. Il sergente maggiore scosse la testa. «Che cosa c'è?» domandò Drogo. «C'è che il servizio così non va. L'ho sempre detto. È da pazzi!» rispose Tronk. «Ma che cosa è successo? Il servizio così non va!» ripete Tronk. «Dovrebbero farlo prima. Il cambio della guardia, la ridotta nuova. Ma il signor colonnello non vuole!» Giovanni lo guardò meravigliato. Possibile che Tronk si permettesse di criticare il colonnello? «Il signor colonnello», continuò il sergente maggiore con profonda serietà e convinzione, non certo per rettificare le ultime parole, «ha perfettamente ragione dal suo punto di vista. Nessuno però gli ha spiegato il pericolo». «Il pericolo?» chiese Drogo. «Che pericolo poteva mai esserci a trasferirsi dalla fortezza alla ridotta nuova per quel comodo sentiero in località così deserta?» «Il pericolo», ripete Tronk. «Un giorno o l'altro succederà qualche cosa con questo buio». «E che cosa si dovrebbe fare?» chiese Drogo per cortesia. Tutta quella storia lo interessava molto relativamente. «Una volta», fece il sergente maggiore, ben lieto di poter sfoggiare la sua competenza, «una volta alla ridotta, la guardia si cambiava 2 ore prima che alla fortezza, sempre di giorno, anche d'inverno, e poi la faccenda delle parole d'ordine era semplificata. Occorreva quella per entrare nella ridotta e occorreva la parola d'ordine nuova per la giornata di guardia e il ritorno alla fortezza. 2 bastavano. Quando la guardia smontante era di ritorno alla fortezza, la guardia nuova qui non era ancora montata e la parola era ancora valevole». Già, capisco», faceva Drogo, rinunziando a tenergli dietro. Thank you.